Ah, il mio articolo su Micromega nasce dall'idea di rispondere alla direttrice di Micromega, Cinzia Sciuto, che è una donna di cui ho grande stima e di grande intelligenza, che aveva scritto un articolo molto polemico, diciamo così, verso quella parte di sinistra che ha apprezzato in parte, in buona parte, il pontificato e le battaglie morali, civili, pacifiste per gli ultimi, per gli immigrati, per i detenuti di Papa Francesco. Io sono d'accordo su un fondamento dell'articolo della collega Sciuto, cioè che ci sono delle mancanze, diciamo così, di riferimenti intellettuali, culturali e politici nella sinistra, per cui il Papa talvolta ha svolto una funzione di supplenza in questi riferimenti che non abbiamo più o che abbiamo soltanto in parte e molto meno rispetto a una volta. Non sono d'accordo invece con lei su il giudizio negativo rispetto a questo e rispetto al Papa soprattutto, perché il suo poi è un articolo molto negativo nei confronti del Papa appena defunto. Io credo che il Papa appena defunto abbia svolto alcune, molto onorevolmente, alcune funzioni di supplenza anche per i non credenti in termini valoriali. Esiste una chiesa così, diciamo così, metafisica, teologica, dogmatica, che è la chiesa di Ratzinger, banalizzo un po', schematizzo un po'. Dopo di quella abbiamo avuto invece una chiesa che non ha passato la sua giornata a emettere divieti o dogmi, ma ha passato la sua giornata a parlare degli ultimi, a parlare dei migranti, a parlare della pace, a parlare della sofferenza, a parlare dei poveri. In un contesto sociale come quello neoliberista, in cui essere poveri sembra quasi una colpa e in cui essersi arricchiti è invece un merito, lui ha tentato di rovesciare questi canoni. Quindi non c'è niente di sbagliato, secondo me, nell'approvare, nel sentirsi vicini a questi valori, anche se vengono da un papa che è il capo di una religione in cui noi non credenti appunto non crediamo. Anche dal punto di vista ambientale, la Laudato Si, secondo me, è una straordinaria enciclica. Certo, il Papa è anti-abortista, lo sappiamo, è anche contro il divorzio, è anche per il celibato dei preti, ma tutto quello che qui non possiamo neanche aspettarci da un Papa che sia Che Guevara o Thomas Sankara, cioè è un Papa, è legato comunque a dei dogmi, a delle teologie, a delle metafisiche che non condividiamo, ma da un punto di vista valoriale e da un punto di vista dell'attenzione al sociale, all'ambiente, agli ultimi, ai reclusi, ai sofferenti, ai poveri, è stato un punto di riferimento in un periodo in cui altri, compreso buona parte della sinistra, non ne parlavano o non ne parlavano più. Quindi è vero, certo, ha ragione Cinzia Sciuto quando dice che noi scegliamo fior da fiore le cose che ci piacciono da questo papato, ignorando quelle che non ci piacciono. Non è che noi le ignoriamo, le diamo abbastanza per scontate, che un papa abbia anche una visione metafisica e ontologica del reale basata sulla fede, cose in cui non crediamo, la risurrezione, almeno io non ci credo, sono agnostico. E tuttavia credo che abbia svolto una funzione molto positiva. Pensiamo soltanto alla funzione che ha avuto nelle guerre, nelle due grandi guerre in corso in questo periodo, quella in Medio Oriente, quella successiva all'invasione della Russia in Ucraina. Non me la sento proprio, e su questo ho voluto mettere i puntini sugli i, diciamo, rispetto all'articolo di Cinzia Sciuto, di considerare negativo nel suo complesso l'aspetto valoriale che ci ha lasciato Papa Francesco, tenendo conto che ci sono due chiese, ripeto, schematizzando un po', una chiesa che è tutta metafisica, teologica, ontologica, che è quella ben rappresentata dal papato di Ratzinger, che non parlava di poveri, ma parlava soltanto di divieti prevalentemente di ordine sessuale, invece questa chiesa che si è tanto impegnata nel sociale, per cui io ho contestato l'articolo di Cinzia Sciuto. Voglio sottolineare che Cinzia Sciuto, con estrema laicità, ha accettato di pubblicare sul suo giornale un articolo fortemente dissonante sul suo sito, su Micromega, un articolo fortemente dissonante rispetto alla sua opinione, e questo le fa molto onore. Quindi questi tempi poi effettivamente va sottolineato questo aspetto. Ti faccio proprio, chiedo un'ultima battuta, in realtà le cose le hai già dette, però insomma, anche dividendo tra metafisica cristiana ed etica cristiana, possiamo quindi anche dire che l'etica cristiana e l'etica socialista, questa parola che anche questa sembra un po' proibita, hanno più punti di contatto. Quindi guarda, io andrei ancora più in là. Io studiavo storia del cristianesimo e storia medievale, un professore molto cattolico tra l'altro ci spiegò che se il cristianesimo si era diffuso in Europa nel secondo, nel terzo, nel quarto secolo dopo Cristo, non era tanto per i miracoli, per la teologia, per il concilio di Nicea o per la Trinità, ma era per due o tre frasi che erano passate nel popolo: beati gli ultimi che entreranno nel regno dei cieli, non fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Sono dei principi di etica cristiana che hanno intriso di sé tutta la storia del cristianesimo e che hanno anche portato il cristianesimo a vivere vivere 2000 anni nonostante i papi, nonostante i Borgia, nonostante Torquemada, nonostante tutti gli orrori fatti dalla Chiesa Cattolica, averli riproposti in epoca moderna, in un'epoca neoliberista in cui nessuno ne parla più, è stato un atto secondo me straordinario di cui bisogna rendere atto questo Papa. Per questo mi sono permesso di esprimere un parere dissonante rispetto a Sciuto. Io comunque, se qualcuno è interessato, invito a leggere entrambi i pezzi, perché vedo che molto anche sui social c'è un dibattito fra coloro che danno ragione a me e coloro che danno ragione a Sciuto. Poi ovviamente non è un contest, non mi interessa vincere, mi interessa il confronto di idee.